Alto mare notturno, onde nere, acque agitate, il canto della sirena, Ulisse, il canto delle sirene, Ulisse che canta, un canto arioso, la voce d'uomo, il canto della sirena, il canto della sirena, Lo spot inizia una così. voce poco soave, una voce d'uomo. Una voce Un d'uomo, secondo canto. una voce d'uomo, Di nuovo. Ancora. onde nere, suona sordo, così comico, comico, Poi la voce voce. d'uomo, poco In soave. caso d'emergenza, meglio non prendersi per una sirena. 112, 118, 117, 114. In caso d'emergenza, meglio non prendersi per una sirena. Chiamate 112, 118, 117 e 144.